effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E ciao a tutti e tutte, 1359 la modulazione di frequenza in onde medie sulla quale vi siete collegati e collegate, e questo è lo spazio della stampa rassegnata in Radio Wombat. Ciao e bentrovati a tutte e a tutti e tutte e tutti gli amici e le amiche ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, perlomeno quelli che ci ascoltano con una certa continuità, e un benvenuti a quelli che ci dovessero aver trovato in onde medie per caso, oppure ci stanno ascoltando in streaming per curiosità e per prova, oppure ci state ascoltando scaricando i podcast delle nostre trasmissioni. Quindi questi sono i rituali saluti della settimana della stampa rassegnata, che è una piccola trasmissione che in una 55 di minuti, un'oretta, cerca di dare un'occhiata alle cronache cittadine attraverso la lettura dei giornali che riportano ancora le cronache locali, con un occhio di particolare attenzione riguardo alle due vertenze popolari, quella contro la costruzione dell'inceneritore di Firenze, per la precisione Case Passerini, e quella, la battaglia popolare contro la costruzione dell'aeroporto intercontinentale al posto dell'attuale aeroporto di Peretola. Cominciamo, siamo qui schierati con il computer acceso, gli articoli selezionati, pronti e pronte per ascoltare questa tragicomica incursione nella stampa locale. Comincerei con una notizia presa dalla Repubblica del 9 novembre del 2018, e si parlerà del giocattolo elettrico ormai più amato dalla politica italiana, che è diventato la pistola elettrica, il Taser. L'avevamo già annunciato quando Firenze venne annunciata come una delle città nelle quali sarebbe partita la sperimentazione della pistola elettrica in dotazione alle forze dell'ordine, intendendo con esse carabinieri e polizia. Poi ci abbiamo un po' scherzato sopra, già allora, sul fatto che già la pistola elettrica piaceva un po' a tutti, dai sindacati delle forze dell'ordine a ovviamente il ministro Salvini. Aveva e riscuoteva grandi successi anche in ampi settori della società italiana, e ci scherzavamo sul fatto che sarebbe andata in dotazione un po' a tutti, fino anche ai presidi e agli insegnanti, per tenere a bada le classi più turbolente. C'è purtroppo poco da ridere e poco da scherzare, perché in effetti la sperimentazione e il raggio di penetrazione di questa sperimentazione sulla pistola elettrica si va davvero allargando. Proprio la settimana scorsa avevamo recuperato una notizia che era un po' vecchia, però in realtà insomma mai passata di moda e meritevole ancora della nostra attenzione, che era quella della protesta inscenata davanti ai cancelli di Sollicciano da parte del SAPPE, il sindacato di polizia penitenziaria, che chiedeva, a seguito di un episodio definito esplosivo e enfatizzandolo ed ingigantendolo all'infinito, chiedeva però l'utilizzo e l'introduzione della pistola elettrica dentro il carcere di Sollicciano, nella cornice di una campagna nazionale che vede il SAPPE impegnato nella richiesta di questa pistola elettrica Taser in tutte le carceri italiane. Quindi abbiamo visto quella notizia, e oggi siamo per l'appunto da una notizia apparsa sulla Repubblica, ma riportata anche dal Corriere e ovviamente anche dall'immancabile Nazione, sulla possibilità che questa pistola elettrica Taser venga data in dotazione anche ai vigili urbani del Comune di Firenze. Guardiamo un po' l'articolo, che mette già un po' in evidenza il contraddittorio che si è aperto su questa vicenda anche all'interno della stessa politica fiorentina, intendendo con politica le forze politiche che sono presenti all'interno del Consiglio Comunale, e la notizia è questa. Titolo: il comandante, i vigili urbani proveranno la pistola elettrica. Se passerà alla Camera il decreto sicurezza, che Nardella critica, non dà risposte. No al decreto Salvini, sì alla sperimentazione dei taser per i vigili. È la strategia double face sulla sicurezza di Palazzo Vecchio. Infatti il sindaco Dario Nardella si lancia prima in un attacco al decreto sicurezza appena approvato al Senato, dicendo: nei prossimi mesi vedremo molti più clandestini in mezzo alle strade e in piazza. Gli italiani finalmente sapranno che questo sarà dovuto alle scelte inserite in questo decreto legge sicurezza che produce più clandestini e dunque una percezione di maggiore insicurezza nelle nostre città. Che fa poi Nardella lascia la palla ai vigili urbani sulla possibilità di usare il taser, la pistola elettrica stordente, come previsto dal decreto. Il sindaco dice che è una soluzione tecnica, toccherà al corpo della polizia municipale decidere. E il comandante dei vigili urbani, tale Alessandro Casale, non perde tempo. Siamo in attesa dei provvedimenti ministeriali, poi verrà fatta una sperimentazione. Individueremo due agenti particolarmente sensibili, equilibrati e professionali. Faremo la sperimentazione e ne vedremo gli esiti. Questo è quello che dice il comandante, che è in qualche modo riconosciuto, un filo leghista. Quindi evidentemente ben allineato e ben schierato in quella lettura della realtà che la destra cittadina e nazionale continua a proporre ormai da anni. Lettura della questione sicurezza, delle questioni migrazione e sicurezza che purtroppo vediamo sempre più accompagnate, che ci sembra davvero accomunare in maniera sempre più tragica e tragicomica la cosiddetta sinistra e la cosiddetta destra, anche perché proprio nelle parole di Nardella si evince e si legge neanche troppo tra le righe questa immediata equiparazione tra delinquenza, criminalità e clandestinità, perché appunto la sua critica rivolta al decreto legge cosiddetto decreto legge sicurezza, in qualche modo anche decreto Salvini, perché diciamo Salvini con il suo faccione di culo ne incarna evidentemente i contenuti e quindi è passato alla comunicazione mediatica come decreto Salvini, ma insomma è l'ennesimo decreto sulla sicurezza che prendendo le mosse da quelli che sono stati i pacchetti sicurezza cominciati a fioccare dalla fine degli anni 90 ai primi del 2000 hanno continuamente cambiato le carte in tavola in materia di sicurezza, ordine pubblico, controllo, migrazione e quant'altro. Politiche ad ampio raggio, a largo spettro, quindi si va dall'ordine pubblico nelle manifestazioni alle autorizzazioni, si va alla questione degli stadi, si va alla sicurezza intesa come sicurezza stradale, poi si arriva alla sicurezza intesa come controllo dei flussi migratori interno ed esterno, dei confini, delle frontiere, le politiche che hanno istituito prima i centri di permanenza temporanea, poi i centri di identificazione ed espulsione. Insomma, è una materia nella quale si è legiferato in tantissime forme, ma lo strumento del pacchetto e del decreto legge ad hoc ormai caratterizza la produzione di leggi da ormai più di 20 anni. Insomma, che dice Nardella? Dice: questo decreto legge, che come più osservatori, ovviamente anche più competenti di me in materia, in questa materia di questa grande macro categoria che si è aperta negli ultimi anni, che possiamo definire la materia migratoria, molti osservatori hanno definito e descritto il futuro decreto come una fabbrica di clandestinità, e in effetti sarà così, lo dice anche Nardella, che ci saranno molti più clandestini. Però quello che Nardella non dice, o meglio che dice fra le righe, è che il passaggio da una condizione di cittadino a una condizione di clandestino diventa immediatamente un problema di sicurezza. Ecco, questa sicuramente è la lettura demenziale che non possiamo in nessun modo accettare, perché se una persona, uno straniero, da un momento all'altro, semplicemente perché cambia la legge, la sua condizione passa da quella di cittadino a quella di clandestino, questo non vuol dire che la sua condotta di vita immediatamente passa da una condotta di solidarietà, di rispetto delle regole della convivenza civile, ad una condotta che invece diventa motivo di allarme sociale e merita di essere trattata con strumenti repressivi e di controllo. Eppure questo è il discorso che fa Nardella, e è il discorso discorso con cui Nardella apre la possibilità che i vigili scelgano a questo punto autonomamente e con una certa libertà appunto di scelta di corpo di utilizzare o meno la pistola elettrica. Come abbiamo visto, il comandante Alessandro Casale sembra del tutto intenzionato a muoversi in questa direzione, si aspetta a questo punto solo l'approvazione del decreto e quindi poi decreti ministeriali e sembra che il gioco sia fatto. La discussione anche all'interno del Palazzo Vecchio e tra le forze politiche è ovviamente abbastanza accesa, chiaramente le forze minoritarie ma pur presenti della sinistra diciamo tradizionale o comunque storicamente legata all'esperienza dei fuoriusciti allora dal PC, quindi il percorso di rifondazione comunista in tutte le vicende e vicissitudini che ha avuto negli anni, non fa certamente sconti alla posizione presa da Nardella, chiaramente affermando il fatto che si tratta di una scelta non tecnica, come ribadisce Nardella, ma di una scelta propriamente politica, cioè dotare il corpo dei vigili urbani di una pistola elettrica taser non è una scelta meramente tecnica, ma è una scelta assolutamente politica proprio per il peso e l'importanza che questo strumento repressivo e per alcuni versi anche di vera e propria tortura elettrica sta assumendo. Non mi dilungo più di così sulla pistola elettrica, della quale abbiamo parlato in diverse trasmissioni precedenti, sulle quali se volete potete recuperare tranquillamente i podcast. Spostiamoci su un'altra notizia facendo un passo indietro rispetto alla cronologia delle notizie. Corriere Fiorentino del 3 novembre, una notizia che diciamo, occupa uno spazio giornalistico anche importante all'interno del giornale, un grosso articolo che commenta di un rapporto sul mercato immobiliare cittadino fatto da Tecnocasa. Tecnocasa, l'agenzia immobiliare, o meglio il franchising di agenzie immobiliari, che sicuramente ha un occhio attento e in qualche modo quello che dice va preso con una certa attenzione, parla di analisi previsionali, quindi non è facile e insomma la l'esplosione dei mutui subprime e la bolla immobiliare del 2008 ci hanno insegnato a prendere molto molto molto con le molle la capacità predittiva degli operatori di mercato proprio sul mercato stesso. Detto questo, insomma, guardiamolo perché è interessante e ovviamente si tratta di una delle tematiche, di una delle questioni più rilevanti nella città di Firenze e l'articolo è Case, lo scossone di Airbnb. Airbnb ovviamente è Air Bed and Breakfast, quella piattaforma informatica e telematica ormai assolutamente planetaria e globale che permette, sì, come portale della cosiddetta sharing economy, di trovare, insomma, di mettere, offrire e immettere sul mercato delle abitazioni, degli immobili o forse anche solo delle stanze da mettere in affitto, e dall'altra parte a chi lo guarda di trovarsi la propria collocazione scegliendo il prezzo, vedendo la zona. Insomma, questo è un po' il funzionamento, quindi rendere la casa, i metri quadri nelle località del mondo come una cosa molto semplice da scegliere in un catalogo, come si può fare con i prodotti, con quasi qualunque altro tipo di merce, da i siti di Amazon passando per eBay o altro, e questo è riferito alle case. Chiaramente quest'uso, questa fortissima spinta alla mercificazione dello spazio immobiliare e dello spazio urbano ha delle conseguenze non da poco e delle ricadute sulla vita degli abitanti e sull'organizzazione delle città. Su Firenze è evidente per chi, tutti quelli che ci ascoltano e la città la vivono, se la vivono da molti anni sanno che le tendenze che verranno messe in evidenza dall'articolo e dal rapporto operano in questa città che fa del turismo e dei grandi eventi, o comunque in generale dell'essere vetrina e scenografia, ne fa praticamente il suo mestiere da molti e molti anni, ma tutto questo si è fortissimamente incrementato negli ultimi anni. L'articolo ci dice nel sottotitolo: la domanda cresce, l'offerta cala, in centro già spariti dal mercato mono, B e trilocali. Prezzi in aumento in quasi tutta Firenze per l'acquisto di case, ma in centro è il triplo della media e la caccia per affittare ai turisti ha cannibalizzato, tra virgolette, bi e trilocali. Cannibalizzato è proprio un termine che usa Tecnocasa. Proseguo leggendo, cannibalizzato. L'ultimo rapporto di Tecnocasa sul mercato immobiliare, sia per la vendita che per gli acquisti, descrive così il fenomeno delle compravendite da parte degli investitori, spesso stranieri, di case in città. Cioè, di chi non compra un appartamento per abitarci, ma per metterlo a rendita, affittandolo principalmente a turisti, un fenomeno che fa diminuire sensibilmente la percentuale di offerta di trilocali e bilocali. In pratica sono già tutti mangiati, seguendo la metafora di Tecnocasa. Questo è quello che dice Tecnocasa. Non solo, ormai questi investitori non sono più principalmente italiani, ma stranieri, e stanno gentrificando la città, cioè acquistano una casa per venire a visitare la città per brevi periodi, una settimana, qualche fine settimana, un po' di ferie durante le festività, e poi la affidano durante l'anno a qualcuno che la mette a disposizione come locazione breve sulle piattaforme web tutto il resto dell'anno. Un fenomeno noto, ma che non solo non smette di aumentare, si espande in altre zone della città. Ora, per esempio, segue la tranvia verso Careggi e il polo universitario. L'articolo è abbastanza lungo, come ho detto, prosegue, ma credo che per quanto ci riguarda, nel senso che per quello che è più interessante, è già stato detto. Diciamo che gentrificazione, gentrificando, che l'abbiamo letto nell'articolo, è una categoria non usiamo solo noi, non usano solo i compagni, non usano solo gli anticapitalisti, ma evidentemente, insomma, è un fenomeno, un processo sociale, per chi non lo conoscesse e senza alcuna presunzione, la gentrificazione è quel processo sociale di segregazione, di stratificazione urbana e urbanistica, che praticamente, rendendo i centri cittadini o comunque alcune zone appannaggio di classi con capacità di spesa più alte, costringe poi coloro che hanno minori capacità di spese a spostarsi verso o aree marginali, tendenzialmente più lontani dal centro è la cosa che è più intuitiva, ma non necessariamente così, perché i centri, le città e le aree metropolitane possono ovviamente essere anche policentriche, cioè non avere un solo centro, e quindi le aree diciamo a maggiore o a minore valore possono essere anche non essere necessariamente distribuite e organizzate rispetto a un centro come se fossero tanti cerchi, ma essere anche disposti in maniera diversa. Quindi questa è in sostanza la gentrificazione, ripeto, un fenomeno che chi conosce Firenze da molti anni sa che è operante perlomeno dalla fine degli anni 70, che ovviamente ha visto un passaggio e un giro di boa molto forte con la fine della legge sull'equo canone. Mi pare fosse la legge Zagatti del 96, se non vado errato, potrei sbagliarmi, ma comunque siamo alla fine degli anni 90, in cui non casualmente la vulgata neoliberista, associata anche a una trasformazione delle nostre città che in connessione a fenomeni di delocalizzazione produttiva, vedono anche una trasformazione appunto della città, del tessuto urbano, la costruzione di alloggi, uffici, spazi commerciali laddove prima erano fabbriche o insediamenti produttivi, e una progressiva, insomma, aumento di importanza della rendita rispetto a quello che era l'uso dello spazio a fini, ripeto, produttivi. Con produttivo si intende la fabbrica, si intende l'artigianato, si intende la logistica legata alla fabbrica e quant'altro. Quindi, insomma, sono fenomeni che a Firenze operano da tempo, ma che stanno diventando sempre più forti. E un altro elemento che l'articolo mette fortemente in evidenza è che tra questi investitori che comprano soprattutto mono, bi e trilocali per usufruirne loro stessi per brevissimi periodi di tempo durante l'anno, ma poi per tutto il resto per metterli in affitto, stanno aumentando gli stranieri, e si assiste a un processo di maggiore concentrazione di capitale in cui anche le case, anche questi mono, bi e trilocali, diventano appannaggio di stranieri, evidentemente stranieri che hanno capacità di spesa ancora più alta dei ricchi fiorentini, e che si comprano queste case e che poi, insomma, saranno loro a guadagnarci. Tutto questo non pone solo problemi di acquisto delle case, ma pone anche dei problemi di vera e propria propria organizzazione della vita nelle nostre metropoli, perché è chiaro che se nei centri cittadini o anche nei quartieri che sono più limitrofi o nei percorsi che rendono l'accesso e il collegamento con il centro più veloce si porranno non solo dei problemi di distribuzione della popolazione, ma quindi anche dei servizi ad essa connessi, ad essa collegati, quindi molto probabilmente la sparizione di negozi di vicinato, di negozi di prossimità, la assenza di presidi sanitari, servizi in termini di assistenza per i bambini, quindi asili, scuole. Saranno tendenzialmente processi che vedranno una forte ristrutturazione della città, o comunque avranno conseguenze non da poco. Certamente la conseguenza più evidente e più preoccupante è proprio quella dell'aumento dei prezzi immobiliari, aumento dei prezzi immobiliari all'acquisto, che diventa immediatamente aumento dei prezzi immobiliari anche per gli affitti, e quindi questo insomma implementerà quel processo di segregazione urbana che Firenze conosce da anni e che ha portato grandi masse di cittadini che ormai già da tempo vivono nei comuni limitrofi, spesso nelle aree, diciamo, di espansione seguendo il corso dell'Arno, cioè l'area di espansione verso nord-ovest, quindi la Piana Fiorentina, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, la Strassigna, fino a Prato Pistoia, tenendo conto che spesso, insomma, il pendolarismo in questo senso si allungano poi i percorsi, appunto, del pendolarismo, con conseguenze non da poco anche nei termini del traffico che poi porta con sé inquinamento del PM10, PM2.5, CO2, oltre al fatto che vivere più lontani dal posto di lavoro significa anche perdere tempo di vita prezioso negli spostamenti, e questo indubbiamente sono tutti fattori che vanno a peggiorare la condizione di vita degli abitanti dei territori in modo significativo. E le spese le facciamo noi e i guadagni li fa chi si può permettere di comprare le case a prezzi più alti e metterle in affitto. Insomma, questo è quanto, è una delle cose che, insomma, su questi temi ci torniamo in modo ciclico e ricorrente, però era, credo, interessante vedere come la gentrificazione e questo tipo di dinamiche non sono, appunto, temi che afferiscono solo alle discussioni dei compagni o dei movimenti di resistenza urbana, quali per esempio le discussioni che si sono tenute recentemente nella rete SET, cioè la rete delle organizzazioni, di molte organizzazioni sociali, metropolitane e urbane, che si sono incontrate a Napoli per discutere dei problemi delle città di fronte alla turistificazione. Ragionamenti sulla turistificazione di cui abbiamo parlato da questi microfoni attraverso la trasmissione di Fuoco alle Polveri, che ha ospitato proprio recentemente due compagni, due attivisti, due urbanisti, Antonio e Roberto, che hanno fatto un punto e un resoconto puntuale, competente e molto interessante di quelle che sono state le discussioni tenute a Napoli. Vi invitiamo con questo ad ascoltare Fuoco alle Polveri e ci auguriamo di creare quella circolarità nei contenuti anche attraverso le varie trasmissioni, che è in qualche modo anche un punto che dà valore alla nostra esperienza radiofonica di Radio Wombat. Ora facciamo una pausa con un pezzo musicale. Ho una visione distaccata della vita che vivo, non perdo tempo mantenendo un approccio che è negativo. Di base scrivo, incido senza un vero obiettivo, disegno le mie idee come affreschi nel primitivo. Ne sono passati di anni dal primo incontro. Casualità han voluto che scoprissi questo mondo. L'affare del rap mercerara per pochi eletti. Rapì il mio immaginario col mandolo di interessi. Smollai la disco, trovai un nuovo percorso. Sempre più diverso ogni respiro ad ogni sorso. Senza alleati nei contatti. Con l'ironia di chi era intorno a minacciare i primi passi. Vissi momenti di autentica solitudine. Modificando tattiche, acquisendo nuove regole. Ricordo sguardi di dissenso, velati da sorrisi di amici che avevo e con il tempo ho perso. Vero amore a prima vista, la mia prima conquista, la mia prima emozione come artista, un'esibizione in freestyle gettato nella mischia, tra sguardi scettici di gente che poi neanche si è più vista, sapori amari tipici del rap nostrano, che danno un volto nuovo le sembianze di un alieno, mica bastavano il talento e la bravura, entrare nelle lead dei VIP sembrava gara dura, ricordo ancora le giornate in casa a scrivere, coi piatti con i 33 giri pieni di polvere, le gemme in giro per l'Italia, le notti spese in qualche scantinato a fare rime da battaglia, ricordo i giorni degli scazzi, in branco con i miei ragazzi, giocando a fare i duri come Bugsy, senza nessuna idea precisa in proposito, ognuno col suo viaggio cresciuti gomito a gomito. In questi tempi vado in fissa con l'ansia e l'insicurezza. Da rapper annoiato in cerca di qualche certezza. Sto ad un livello superiore alla media, refrattario all'ingordigia di chi cercava una moda. Non vedo più le stesse facce al mio tavolo e sicuro non c'è più quell'energia che mi invidiavano. Tutto sommato mi funziona lo stesso, non mi interessa il mio mancato successo. Penso che adesso ho più occasioni in cui spesso mi confesso. Individuo a posteriori ogni mio vecchio passo falso. Non mi torturo con gli impianti, ho più tempo che contanti. Vorrei farli fruttare entrambi. Ho ancora qualche rimasuglio d'orgoglio e nella testa déjà vu di ogni mio singolo ricordo. Tengo a me i nomi e le frasi come scritte per sistemare i conti e poi far perdere le mie tracce. Yeah, here I keep down, oh, hold me vida, running fast, man, yeah, get me here, I put on spread, oh, yeah, no torcida, born ready to fight, left, let me see, I, yeah, here I keep down, oh, hold me vida, running fast, man, yeah, get me here, I put on spread, oh, yeah, no torcida, born ready to fight, left, let me see, I. Ed eccoci, rientrati in voce, 1359 per chi si fosse collegato adesso, in onde medie è la modulazione di frequenza alla quale trovate Radio Wombat. Questo è lo spazio radiofonico della stampa rassegnata, piccola trasmissione di commento, analisi critica della cronaca locale per quanto riguarda l'area metropolitana fiorentina. E come di consueto non possiamo non fare un passaggio su quella che è la vicenda legata alla trasformazione dell'aeroporto di Peretola in aeroporto intercontinentale, con tutto ciò che insieme ad esso verrebbe trasformato, costruito e spostato nel quadrante nord-ovest della città. È una cosa, diciamo, una serie di vicende e di vertenze che in qualche modo si presentano sempre legate l'una all'altra, proprio perché l'offerta, diciamo così, l'offerta infrastrutturale del Partito Democratico Fiorentino, rappresentato come frontman e spesso e volentieri showman davvero unico, Dario Nardella, presenta sempre insieme. Quindi, facendo un riassunto per chi si dovesse essere collegato da poco o non è un habitué delle nostre trasmissioni, ripetiamo che il pacchetto proposto dal Partito Democratico Fiorentino e dai padroni del territorio è così composto: il mercato ortofrutticolo di Novoli, che adesso si trova nella zona diciamo di Viale Guidoni, Piazza Artom, Viale Guidoni, verrebbe nei loro piani spostato in una nuova edificazione, in quella che è nota come l'area Unipol o area fondiaria, che è anche definita, diciamo, a livello mediatico come area di castello, che si trova praticamente, si troverebbe tra il viale 11 agosto e l'attuale sostanzialmente sedime della pista di Peretola. Questa è l'area della Unipol SAI, nella quale si dovrebbe trasferire la Mercafir. Al posto dell'attuale Mercafir, nella zona di Novoli, dovrebbe essere costruita la Cittadella Viola, cittadella che non è costituita solo ed esclusivamente dall'ipotesi di nuovo stadio, ma anche da altri edifici. Quindi si parla di alberghi, si parla di gallerie commerciali, che molto probabilmente, insieme allo stadio e forse anche più di questo, sono ciò che interessa ai padroni del territorio, definendo con questa terminologia sintetica e ovviamente anche polemica tutto l'insieme di forze politiche e imprenditoriali che remano e spingono in questa direzione. Quindi Mercafir e stadio in questo scambio veramente drammatico e tragico. Accanto alla Mercafir, nella famosa zona di cui ho parlato adesso, quindi nell'area Unipol SAI, anche altre infrastrutture, o meglio altre edificazioni, per cui anche lì ostelli ovviamente di lusso, si parlerebbe di uffici, si parlerebbe di altre residenze, per andare a costruire accanto e a fianco a quella che sarebbe la nuova pista aeroportuale, sostanzialmente, come abbiamo più volte detto, una vera e propria Firenze 2. Una vera e propria Firenze 2 perché per la quantità di cemento e per le volumetrie del costruito siamo nell'ordine di un raddoppio di quella che è la superficie occupata dal centro fiorentino, intendendo con esso tutto ciò che si trova all'interno della cerchia delle storiche mura medievali. Questo è un po' il pacchetto che presenta Nardella, ed è un pacchetto che in qualche modo va avanti. Va avanti certamente non con la linearità con cui viene presentato dalla cronaca locale e che riporta praticamente in modo quasi sempre pedisseguo e senza particolari approfondimenti quella che è la linea propagandistica del sindaco e del Partito Democratico. Vi leggo così, per fare un po' un riassunto di quelli che sono stati molti articoli usciti negli ultimi 10 giorni, 15 giorni al massimo, alcuni articoli tentando di fare un po' a braccio il riassunto di quello che è accaduto. Si parte con un articoletto preso dalla Nazione che commentava il giorno successivo all'iniziativa che si è tenuta al Viper Theater, era mercoledì 7 di novembre, quindi si parla di un articoletto del comparso Lotto: aeroporto e polemiche, faccia a faccia tra il sindaco e i residenti in via Pistoiese. L'arrivo del sindaco Dario Nardella al Viper, dove si è parlato dell'aeroporto e dei vantaggi legati alla nuova pista, illustrato il nuovo master plan. Era un'iniziativa che ha fatto un po' il bis a quella, se vogliamo, della presentazione del gruppo Viva la nuova pista, che si è tenuta invece il 25 di ottobre dentro i locali dell'SMS di Peretola, di cui abbiamo parlato nell'ultima trasmissione, non mi vado a ripetere, iniziativa questa del 25 di ottobre all'SMS, che partita con l'idea di essere la presentazione e il primo evento pubblico di questo gruppo Facebook, che è diventato in qualche modo un gruppo di attivisti pro aeroporto, in realtà si è trasformato, o forse non si è proprio trasformato, ma si è presentato per quello che è, e quindi una claque di cittadini fatta aperta però rispetto alla politica, tant'è che dietro il tavolo del gruppo Facebook, insieme a due sparuti esponenti del gruppo, chiamiamoli pure diciamo cittadini normali, c'erano poi tutta una serie di grossi e importanti nomi della politica, tutti del Partito Democratico, anche se all'interno della sala non sono mancate delle figure di politici anche della destra cittadina, compresa la destra identitaria e radicale di Casa Pound, che praticamente formano un conglomerato di forze politiche tutte assolutamente coerenti e schierate per il sì al nuovo aeroporto e con esso a tutti questi altri progetti che ho elencato per l'ennesima volta, rischiando di annoiare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma è una vicenda sicuramente molto importante, di cui capite la portata non solo economica e infrastrutturale, ma anche dal punto di vista ambientale e sicuramente del riassetto dell'intera area metropolitana fiorentina. Quindi si è tenuta questa iniziativa al Viper, dove il sindaco, chiaramente un po' anche pungolato da questi abitanti propista, si è recato a parlare delle opportunità della nuova pista, partendo ovviamente anche dai disagi dell'attuale pista. Quindi veramente una cosa che credo che a chi ha un minimo di dignità non può risultare offensiva all'ennesima potenza, perché si parte e si parla degli svantaggi, dei problemi, dell'inquinamento acustico, di quello ambientale, dell'attuale pista, solo ed esclusivamente per come trampolino e ascensore per il progetto di nuovo aeroporto, che sappiamo non risolverà i problemi di impatto acustico e ambientale neanche alla popolazione attualmente sorvolata, che è quella di Brozzi, Peretola e Quaracchi, per tutta una serie di ragioni, sia perché il traffico aereo previsto sarebbe maggiore, sia perché l'attuale pista viene comunque mantenuta per alcuni anni in esercizio, e perché molto probabilmente quella la situazione ottimale per il futuro aeroporto intercontinentale è quella di poter disporre dei cieli sopra Firenze in ogni direzione utile, e quindi non si risolverebbero i problemi neanche a questa popolazione che oggi viene per l'ennesima volta sbeffeggiata raccontando che la situazione attuale è invivibile e quindi ci vuole il nuovo aeroporto e il nuovo orientamento della pista. Nardella al Viper si presenta un po' come con una certa attenzione anche nei come dire, appunto, all'aspetto, al proprio look personale, perché arriva con un giubbino di Sky abbastanza scrauso, con un paio di mocassini marroni abbastanza scrausi che fanno pandan con il giubbino marrone, con un golfino e una camicia, un abbigliamento abbastanza casual che probabilmente gli serve per diciamo sembrare uno di loro, insomma, siccome si è andati in un quartiere periferico dove si incontra la gente e siccome il rapporto è con appunto gli abitanti, Nardella si presenta così per aumentare l'idea che sia una pista del popolo quella che viene proposta, piuttosto che una pista dei padroni. Quindi c'è uno sforzo da parte del sindaco di evitare quelle che sono alcune delle accuse che ovviamente gli muoviamo da tempo, e cioè che la pista rappresenta un asset strategico per l'imprenditoria fiorentina, ovviamente per la grande imprenditoria fiorentina, e che da questa pista la popolazione e le classi subalterne di tutta l'area metropolitana fiorentina non hanno che da perdere, hanno da perdere perché sappiamo con certezza che c'è in ballo immediatamente 150 milioni di euro del governo, che potrebbero essere impiegate per altre emergenze, la messa in sicurezza del territorio, il finanziamento e il rifinanziamento dei servizi, con essi intendiamo scuola, sanità, servizi sociali, diritto alla casa e quant'altro, e lo sviluppo di altre forme di economia che potrebbero svilupparsi appunto in quello che chiamiamo Parco della Piana, che verrebbe piallato dalla costruzione della nuova pista. E certamente queste accuse di diciamo della pista dei padroni, a queste accuse Nardella risponde anche con questo abbigliamento che a me non sembra affatto casuale, e mi sembra un punto direi abbastanza notevole, proprio perché il discorso lì a Peretola ha girato intorno a questo, tentando di controbattere all'accusa di un aeroporto padronale quella di una pista del popolo che va a risolvere i problemi della popolazione di Peretola, Guaracchi, Brozzi e Le Piagge, che sono i quartieri dove si è tenuta questa iniziativa. Allarghiamo un po' il cerchio e il campo, l'ultimo ok per la Mercafir da un articolo di Repubblica, e la Fiorentina nell'area comincia i carotaggi. Abbiamo visto anche l'uscita su questo argomento, sicuramente le cose non vanno spedite come dice appunto il sindaco, però teniamola con molta attenzione, perché in effetti il rischio che possano far partire dei lavori dopo che la giunta comunale fiorentina, evitando e dribblando ogni discussione in consiglio comunale, dove comunque avrebbe la maggioranza, ma insomma hanno evitato di discutere anche in consiglio comunale per discutere solo in giunta la variante del PUE di Castello. PUE di Castello appunto riguardante l'area Unipolsai, nella quale dovrebbero collocare la Mercafir. La Fiorentina svolge un ruolo sicuramente propagandistico nel ragionamento di Nardella, perché si vuole per l'appunto legare le sorti del nuovo stadio della Fiorentina a quelle dell'aeroporto, e quindi cercando di sedurre la città e la tifoseria con l'idea di un nuovo stadio per una nuova squadra, per una squadra più forte e con maggiori capacità di investimenti e di comprare giocatori per far decollare la Fiorentina, e nello stesso tempo seducendo i fiorentini e la città e la tifoseria con l'idea di un nuovo stadio, però un nuovo stadio che in un modo o nell'altro deve andare insieme all'aeroporto, anche perché chi ci metterebbe i soldi, o perlomeno chi li anticiperebbe, sarebbe per l'appunto Eurnechian e Toscana Aeroporti, che comprerebbe insomma la parte di terreni dove dovrebbe sorgere anche la Mercafir. Quindi insomma le questioni e le sorti sono sempre molto legate. Sappiamo poi di questa settimana è anche la notizia del rinvio della conferenza dei servizi, che è cominciata con il primo appuntamento del 7 di settembre, che poi è slittata fino a novembre e che slitta ancora a dicembre. Slitta ancora perché Peretola un altro rinvio, articoletto dal Corriere Fiorentino, per il laghetto di Signa. ENAC ha chiesto lo slittamento della conferenza dei servizi, che dovrebbe dare il via ai lavori. Si va appunto al 7 di dicembre perché ancora le questioni non sono risolte intorno al lago di Peretola. Il lago di Peretola, che è un laghetto che sorge appunto accanto al confine nord-ovest dell'aeroporto e che è protetto da forti vincoli paesaggistici e naturalistici, e che dovrebbe essere piallato dal passaggio della nuova pista progettata per il nuovo aeroporto, e che i padroni del territorio vorrebbero ricostruire in un ambiente, in una artificializzazione dell'ambiente naturale del tutto contestabile, la dovrebbero ripiazzare a Signa, più o meno dentro il parco dei Renai. Quindi praticamente quello che è un sistema ecologico che si è formato e che si è evoluto lungo centinaia di anni, che è quello del laghetto di Peretola, loro lo tombano con il cemento della pista, e secondo loro si ricostruisce tutto come se niente fosse, insieme e accanto a un lago già esistente. La questione diventa un problema anche amministrativo, perché il comune di Signa da anni, anche su spinta degli abitanti, dovrebbe realizzare una piccola bretella che scavalca appunto il parco e il lago dei Renai, per creare una mobilità, insomma dare sfogo a una mobilità che risulta veramente asfissiante, fortemente impattante anche da un punto di vista dell'inquinamento e del microparticolato, che ad oggi colpisce alcune vie e l'abitato di Signa. Quindi c'è questo conflitto tra il laghetto di Peretola, che verrebbe spostato per la vicenda aeroportuale, e invece la richiesta degli abitanti, e accolta anche dal sindaco Cristianini, della bretella. Vediamo cosa dovrà succedere, e nello stesso tempo teniamo e continuiamo a tenere l'attenzione alta, perché appunto sembrano a tutti gli effetti molto intenzionati ad andare avanti su questi progetti. E come sappiamo e come abbiamo visto, la questione delle infrastrutture e delle grandi opere è uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del sindaco, ed una ovviamente delle cose nelle quali le grandi aziende da sempre continuano a fare soldi. E quindi quando ci sono in ballo i finanziamenti pubblici, come sappiamo esserci e come abbiamo più volte detto rispetto all'aeroporto, c'è da aspettarsi di tutto, anche tranquillamente la violazione delle regole più elementari delle stesse regole e della stessa legalità borghese. Sì, e poi andiamo poi a chiudere la nostra trasmissione di questa settimana con una notizia rilevante presa dalla Repubblica. Praticamente tutti hanno riportato la stessa cosa, anche il Corriere, anche la Nazione, cambiano magari delle sfumature, però insomma la notizia è la stessa. Quindi dai giornali, dalla cronaca locale del 10 novembre, nel nostro caso specifico da Repubblica, la vado un po' a leggere per dirvi quello che è successo. Può darsi che qualcuno se ne sia anche accorto, perché è stato di fatto uno show, è uno show che si ripeterà. Un cerchio bianco nel cielo intorno al Duomo, che tra le nuvole addensatesi verso le 14 nel cielo azzurro di ieri, assomigliava più al fil di fumo della Butterfly che alla grande rivoluzione dell'aeronautica di cui parla il fotografo di sport estremi e lui stesso praticante dei medesimi, Max Heim, che di questa rivoluzione è assai appassionato. Eppure il fil di fumo disegnato da due paracadutisti in tuta alata, tipo Batman, annuncia la novità. Il rocambolesco sorvolo si ripeterà sul Duomo ogni venerdì alle 14.30 e diventerà appuntamento fisso dei paracadutisti alati che si esibiranno sul Duomo con fumogeni bianchi e colorati. Il cerchio è stato l'inizio, ma l'ambizione è di arrivare a disegnare in cielo il Giglio di Firenze. Siamo emozionati per avere sorvolato la cupola del Brunelleschi, dice Heim, per l'appunto il fotografo sportivo. Così Firenze diventerà la prima città del mondo. Esibizioni del genere ci sono state a Dubai e Bora Bora, ma sul mare e non sui monumenti, con Air Show fisso sopra le sue bellezze. Lo spettacolo diventerà una peculiarità stabile ad uso degli occhi stupefatti dei turisti, semmai li staccassero dai telefonini delle foto e dai bastoni dei selfie per vedere in diretta il Duomo e il cielo, ma anche dei fiorentini. Max Heim è il fotografo paracadutista che l'anno scorso girò per Red Bull il video dei due che si lanciano dalla montagna e infilano dentro un aereo che ha conquistato 230 milioni di visitatori. I paracadutisti del gruppo Skydive Dream, ideato da Heim, sono professionisti noti nel mondo. Ieri hanno ufficialmente dato il via all'Air Show, ma da ottobre si lanciano da 4.500 metri nella zona di Porta Romana, in tandem con i turisti, che ammirano Firenze dall'alto per 399 euro in su. Ma sulla cupola no, i turisti non ci vanno, lo spettacolo è solo dei paracadutisti professionisti e dei loro fumogeni. Con il lavoro dei turisti ci paghiamo il lusso degli air show, che sarà in futuro il nuovo modo di fare aeronautica, dice Heim, che ha vissuto qualche anno a Dubai, dove l'emiro ha fatto una pista per paracadutisti. Là questa è un'attività molto frequentata, ma io voglio dimostrare che in Italia si può. Perché iniziare a Firenze? Perché ho vissuto a Prato, perché è la città che è e perché abbiamo un ottimo rapporto con Toscana Aeroporti, dice Heim. Quanto a Toscana Aeroporti, la società di Peretola, è dall'aeroclub del Vespucci che i paracadutisti partono per lanciarsi sul Duomo e atterrare a Marignolle, nel campo dell'albergo Strozzi Machiavelli, dove hanno anche affittato il loro ufficio e dove è la partenza e il ritorno dei turisti in tandem. Altra cosa, gli air show. I lanci spettacolo, dichiara Manuel Basso, istruttore del team con più di 18.000 lanci alle spalle, saranno il primo caso al mondo di air show fisso. L'obiettivo è quello di proporre a Firenze una nuova attrattiva turistica consueta, tipo il cambio della guardia a Londra, ma unica al mondo. Nel team anche gli atleti internazionali Matt Munting e Nick Scalabrino. Le autorizzazioni sono di ENAC e ENAV, le autorità nazionali del volo e dei controllori. Di quella del comune non c'è bisogno, trattandosi di avventura in quota. Le informazioni sugli spettacoli saranno sui social del progetto Skydive Dream, official Facebook page, e sul sito skydivedream.com, su cui si prenotano anche i lanci turistici. Vi ho letto tutto l'articolo perché credo che insomma meritasse attenzione. L'articolo tutto sommato è ben fatto perché riassume tutta la vicenda, e quindi si parla di questo. Si parla di uno nuovo spettacolo di fatto per turisti, perché sì, l'articolo insomma lo dice, evidentemente c'è anche i fiorentini di mezzo, perché chi guarda il cielo non ha nazionalità e non ha provenienza, però evidentemente è uno spettacolo che la città e la sua amministrazione, alcune delle sue categorie imprenditoriali vogliono offrire in maniera deliberata e aperta soprattutto ai turisti. L'idea di insomma viene equiparata direttamente dai proponenti al cambio della guardia di Londra. Mi sembra che insomma ci sia ben poco a che spartire con una diciamo tradizione in qualche modo che affonda nella storia del paese. Qui si utilizza Firenze solo ed esclusivamente per insomma come scenografia e come fondale, ovviamente come fondale di lusso e da un punto di vista estetico molto apprezzato, tant'è che, come dice lo stesso articolo di Repubblica, è la prima situazione al mondo in cui ci si lancia sui monumenti e non sul mare. Prima di Firenze c'è Bora Bora e c'è Dubai, che insomma hanno veramente niente a che fare con la storia di questa città, che viene per l'ennesima volta utilizzata come fondale e come scenografia e come fondo teatrale per attività che in qualche modo appagano e appaghino gli occhi e la vista. L'abbiamo visto ultimamente con la serie televisiva che è venuta, insomma con il film per la Netflix che è stato girato nelle strade del centro cittadino, creando non pochi disagi. Qui abbiamo questo utilizzo delle vedute aeree. Ora, dal mio punto di vista, al di là, o meglio, aggiungendo tutto questo a una critica di tipo culturale che possiamo fare, cioè appunto a tutto quello che in qualche modo ho già detto e dice anche l'articolo, cioè al fatto che si offre uno spettacolo per turisti, c'è un aspetto non secondario che credo vada immediatamente messo in evidenza, che ha a che vedere con l'utilizzo dello spazio aereo. Noi sappiamo, per quanto riguarda la battaglia che stiamo conducendo contro la costruzione del nuovo aeroporto fiorentino, che l'ipotesi di questo nuovo scalo porterebbe con sé un problema non da poco, che è quello dei sorvoli sulla città di Firenze. Lo stesso master plan e alcune stesse analisi presentate da ENAC e Toscana Aeroporti ci confessano, sebbene venga quasi sempre taciuto come argomento, che in base al fenomeno dei venti alcuni atterraggi, soprattutto atterraggi più che decolli, si verificherebbero in direzione di Firenze, o meglio, gli aerei comincerebbero ad allinearsi intorno a Rignano, per poi scendere piano piano di quota, passando su quello che è il quartiere di Campo di Marte, Coverciano, intorno alla zona di San Salvi, per poi proseguire verso Firenze Rifredi, intorno alla zona di più o meno di Via Vittorio Emanuele, per poi scendere ancora verso Firenze Nova, per poi fare, diciamo per concludere, fare la barba a quella che è la caserma dei marescialli sul viale 11 agosto e arrivare, imboccare la pista. Più o meno dalle simulazioni di volo che ormai circolano da tempo e che sono state fatte diciamo dal punto di vista dei comitati e di tutto quel complesso di forze che si oppone e che alla costruzione dell'aeroporto e che ha in qualche modo demistificato anche il progetto, sappiamo che all'altezza della caserma dei marescialli del viale 11 agosto gli aerei sarebbero circa a 70 metri dal suolo, quindi la situazione è abbastanza preoccupante anche da un punto di vista della sicurezza. Ebbene, detto questo, gli scenari per i sorvoli di Firenze sono, diciamo, nei peggiori dei casi, in base appunto ai fenomeni ventosi, siamo intorno a un 20% dei voli. 20% dei voli che, calcolando il numero dei voli annui, dà un risultato abbastanza preoccupante. Insomma, di tutta questa vicenda, sicuramente questo aspetto dei lanci di paracadute e delle vedute dall'alto e degli spettacoli venerdì fissi di lanci con tute alari, un elemento a mio personale avviso, non trascurabile è proprio quello della violazione dello spazio aereo fiorentino, che associata a fenomeni di spettacolo, in qualche modo di figo e ganzo e di nuovismo spettacolare, secondo me tendono a voler abbassare la soglia percettiva e a mettere nella testa della gente l'idea che il sorvolo della città è qualcosa di moderno, di figo, di interessante e di esclusivo. Quindi, in qualche modo, dal nostro punto di vista, tutto questo prepara il terreno per gli eventuali futuri sorvoli, che non avrebbero niente a che vedere con piccoli aerei dai quali si lanciano dei paracadutisti o con tute alari, ma sarebbero invece sorvoli di aerei civili o commerciali che dovrebbero atterrare sull'aeroporto del nuovo aeroporto intercontinentale. E quindi questo risvolto anche percettivo sulla violazione dello spazio aereo ci sembra un elemento preoccupante. Ciao a voi e a risentirci per la prossima settimana. Ciao!